è necessario conoscere se stessi per iniziare a capire gli altri. A volte nemmeno è sufficiente. Si rischia di affrontare discorsi che non ci appartengono con un volto e un sorriso che non ci appartengono. Ma che cosa ci appartiene? Quando entrammo nel centro commerciale non eravamo proprietari di nulla e tu parlavi di percussioni, analogie e premonizioni. Almeno tu, io ti credevo mia. Poi nel negozio di scarpe ho visto le tue scarpe andare via. Col senno di poi è meglio così. Ogni volta che ritengo opportuno insistere, forse era meglio tacere. Quella volta invece semplicemente io non avevo capito cosa facevano le tue mani. Fiutavano l'oggi nell'interesse del domani.